Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Ed eccoci di nuovo in diretta dopo il GR di Radio Popolare. Domani sera nel nostro Last Minute protagonista sarà il binario 69 in via dei Carracci, questo contenitore tra intrattenimento, musica a 360 gradi, con un'attenzione sia per artisti affermati e per giovani che si stanno affermando in un contesto assolutamente ospitale, in una realtà che trova, oltre che la qualità, anche un motivo, come ho già detto, di convivio che è assolutamente da sottolineare. Domani ci saranno sul palcoscenico del binario 69 i Red M, una capacità di ricerca tra jazz con intersezioni soul and funk e divagazioni rock. È una produzione musicale che è molto focalizzata su una ricerca stilistica ed espressiva. È una continua ricerca, loro di giovane età, nati intorno al 2000 più o meno, da quel che ho conosciuto e ascoltato i Red M, che a me piacciono tantissimo. Tra l'altro è un ascolto reciproco, anche telepatico se vogliamo, che consente di reinventare continuamente tra di loro un interplay molto forbito. Intanto ne ascoltiamo un brano per portare a conoscenza anche ascoltatrici e ascoltatori che domani magari saranno al binario 69 per la serata del giovedì 15 febbraio. Red M. Michele Pacagnella, che stiamo ascoltando, ha lavorato, ha seguito Domenico Caliri. Ho parlato di artisti che sono preceduti al binario, che aspettiamo ovviamente di rivedere, che seguiamo anche con Jazz Live, tra cui il chitarrista Domenico Caliri. Nell'interpretazione di questo assolo di Michele Pacagnella si sente una preparazione importante nell'assolo, un filtrare anche con una divagazione rock, mantenendo l'improvvisazione in modern jazz quanto mai presente. Matteo Pontegavelli, classe 1996, prende laurea presso il Conservatorio Martini di Bologna, ha frequentato diversi seminari tenuti da Fabrizio Bosso, grande trombettista. Infatti l'intro che abbiamo ascoltato alla tromba di Matteo Pontegavelli, che va a portare, come stiamo ascoltando, anzi tra un po' lo lascio, che va a portare nell'interplay un valore decisamente importante cantante, Michele Pacagnella alla chitarra, Matteo Pontegavelli alla tromba, Giacomo Gonzerli alla batteria. Due musicisti, Domenico Calire e Fabrizio Bosso, ovviamente stiamo ascoltando una personalità originale di questi giovani artisti che portano la loro ricerca già definita espressiva e stilistica assolutamente personale. Certo che il procedere con studio e approfondimento importante è tra i valori per la continuità artistica e per la crescita. Domani saranno al binario 69 per quanto riguarda la serata nel contenitore, che per la nostra città è un fondamentale. Sarò onoratissimo di accompagnare con DJ set al termine del concerto, accogliere con la musica le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Fujiko e non solo, per questo motivo di incontro al binario 69. Ho anche delle idee un po' particolari per le serate del giovedì al binario, ve ne parlerò, anche perché potrebbero essere legate al Voltiamo Pagina. Intanto procediamo con questa mini playlist Red M, il brano è intitolato semplicemente Seven e tra pochissimo nuovamente in diretta, e poi si partirà con il Voltiamo Pagina. Buon ascolto. Volevo unire alla musica, alla presentazione, al seguito in serata, si fa un po' tardi, questo il venerdì mi porta a essere così con poche ore di sonno, ma ne vale assolutamente la pena. L'accoglienza per l'inizio serata, oltre che in musica, ho così una ambizione, se vogliamo, di portare anche due parole in presentazione letteraria. Per questo inizio 2024, uno l'ho già presentato nella puntata del Voltiamo Pagina scorso, con Thomas Bernhard, Gelo, un libro, un'opera di Thomas Bernhard del 1963, un capolavoro, pensando anche che è stato il suo primo romanzo. Quest'oggi troveremo un altro autore da riscoprire e, perché no, farne una piccolissima rassegna anche all'interno del binario. Questo per domani, giovedì 15 febbraio, serata al binario 69. Si inizia circa come serata dalle 19:30 e poi si procede. Buon ascolto, a tra poco, siete tutte e tutti ovviamente invitati. Quasi quasi consegno il libro al binario 69. Vediamo. Il quiz sarà al 333-180-9494. Tra pochissimo, voltiamo pagina. Buon ascolto!